Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Signore e signori, eclettiche ed eclettici, Giulio Caperdoni è tornato. Comincia il 29 ottobre la 14ª stagione di Eclettica sulle frequenze di Rock FM. L'orario rimane lo stesso, dalle 19 alle 20 tutti i giorni, fra il lunedì e il venerdì. Per aprire i cassetti bisogna girare la maniglia a leva, premendo. Allora la molla si sgancia e il meccanismo scatta con un lieve click metallico. Si mettono automaticamente in movimento i cuscinetti a sfera. I cassetti sono leggermente inclinati e scorrono da soli su piccole rotaie. A volte, per i cadaveri non autopsiati, bisogna aiutare il meccanismo, tirando con le mani, perché alcuni hanno il ventre gonfio che preme contro il cassetto superiore e ostacola il movimento. Gli autopsiati, invece, sono asciutti, come prosciugati, con quella specie di cerniera lampo lungo il ventre e l'interno riempito di segatura. Fanno pensare a bamboloni, a grandi fantocci di una rappresentazione finita buttati in un deposito di robe vecchie. A suo modo. Questo è un magazzino della vita. Questo era l'incipit di Il filo dell'orizzonte di Antonio Tabucchi. It's been a long time, long time now, since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a I'll get You've got a real attitude problem, McFly. You're a slacker. You remind me of your father when he went here. He was a slacker, too. Cominciare così, diretto, senza troppi giri di parole, diretto dentro Eclettica, senza stare a perdere tempo su chiacchiere di inizio stagione, ma subito dentro la musica di Eclettica, con gli sprazzi cinematografici che già conoscete e con gli incipiti letterari che già conoscete, quindi qualche piccola modifica di contorno, ma il contenuto è esattamente lo stesso. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, raggiungibile all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com. Mi sembra ovvio ricordare in inizio di stagione la lista nera che vi permette di ricevere le playlist settimana per settimana con il dettaglio delle canzoni, dei libri e dei film che la caratterizzano, come anche myspace.com/eclettica. Quest'oggi abbiamo aperto con Beirut, un estratto dal suo ultimo album, Nant, è questo il titolo del pezzo, un artista che caratterizza questo inizio di 14ª stagione come aveva caratterizzato l'inizio della 13ª con il suo disco d'esordio. Poi un'altra novità, quella di PJ Harvey, appena ascoltata con When Under Ether, ed ora una rivisitazione da parte di Mark Ronson di un brano di Bob Dylan. Si tratta di Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine. You say you love me and you're thinking of me, but you know you could be wrong. You say you told me that you wanna hold me, but you know you're not that strong. I just can't do what I've done before. I just can't beg you. But you know sometimes you lie. You say you're shaking and you're always aching, but you know how hard you try. Sometimes it gets so hard to care. Can't be sorry for telling stories that you know I believe are true. You say you got some other kind of lover, and yes, I believe you do. Il tassista aveva una barba a pizzo, una reticella sui capelli e un codino legato con un nastro bianco. Pensai che fosse un Sikh, perché la mia guida li descriveva esattamente così. La mia guida si intitolava India, a Travel Survival Kit. L'avevo acquistata a Londra, più per curiosità che per altro, perché forniva sull'India informazioni assai bizzarre e a prima vista superflue. Solo più tardi mi sarei accorto della sua utilità. L'uomo correva troppo forte per il mio temperamento e suonava al clacson con ferocia. Mi parve che sfiorasse i pedoni di proposito con un sorriso indefinibile che non mi piaceva. Alla mano destra portava un guanto nero e anche questo non mi piacque. Questo era l'incipit di Notturno indiano di Antonio Tabucchi. can't believe you loaned me a car without telling me it had a blind spot. Blind spot. I could have been killed. Now, Biff, I never noticed that the car had any blind spot before when I would drive it. Hi, son. But what are you, blind, McFly? It's there. How else do you explain that wreck out there? Now, Biff, can I assume that your insurance is going to pay for the damage? My insurance? It's your car. Your insurance should pay for it. I want to know who's going to pay for this. I spilled beer all over when that car smashed into me. Who's going to pay my cleaning bill? Thank you. C'è musica completamente nuova in questa stagione numero 14 di Ecletica Difficile, che io vado a riprendere brani che ho trasmesso nella stagione numero 13, magari anche nelle sue ultime settimane, esattamente un mese fa. Magari qualche nome può ritornare, ma difficilmente rimetterò canzoni già messe, come per esempio il nome dei Battles che ci siamo appena ascoltati con Tonto, un estratto dello stesso album da cui già avevamo estratto Atlas, oppure il brano che l'aveva preceduto, impossibile che non l'abbiate riconosciuta, Hoppy Polla dei Sigur Rós, però in una versione sicuramente che non l'ha migliorata, anzi, da parte dei We Are Scientists, però il pezzo rimane comunque sempre molto molto bello. Per chiudere con un nome che invece è assolutamente nuovo, lo è, lui è statunitense, ha deciso di adottare uno pseudonimo, viene da Bedford Stuyvesant, si presenta con il nome di Phosphorescent e chiude la prima parte di Eclettica con Wolves. at night, they are beautiful. Blazing with light is the whitest and the tallest and the biggest. All muscled and fine when she runs. Mama, I tried to put them out, and Mama, I know you're too wise to wait till those wolves make.